prima edizione. L'informazione del mattino. 6:14 minuti e 45 secondi, cioè, abbiamo poco spazio, il tempo di una notizia di economia che arriva dall'India ed è piuttosto interessante perché si parla spesso dei cosiddetti BRIC, Brasile, Russia, India, Cina, come motori della nuova economia. Ebbene, il primo ministro indiano Manmohan Singh dice che la crescita dell'economia indiana si attesterà al 7% contro il 9% inizialmente previsto. Dice che il paese sta attraversando tempi difficili e dice comunque i fondamentali della nostra economia sono forti. L'anno fiscale indiano si chiuderà, lo ricordiamo, il 31 marzo, quindi forse ci sarà addirittura spazio per ulteriori revisioni al ribasso. Speriamo di no. Adesso la viabilità, ci ritroviamo dopo per dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani e a qualcosa che peschiamo dai quotidiani esteri. Prima edizione. Le 6:17 minuti e 11 secondi. Diamo un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani che troviamo oggi in edicola, almeno i principali, e come si diceva anche qualcosa dall'estero. Iniziamo dal Corriere della Sera, che sceglie un'apertura particolare, ossia per lanciare il suo inserto Corriere Economia. Lavoreremo una settimana in più per pagare le tasse e i contributi, pezzo a firma di Massimo Fracaro. Fino al 19 giugno lo stipendio andrà al fisco. Come sapete, ogni anno viene fatto questo calcolo fino a quando ci toccherà lavorare durante l'anno, quale sarà il momento nel quale avremo dei soldi per noi. Ecco, questo momento sarà il 19 di giugno. L'apertura vera e propria è il titolo forte dedicato alle parole del Presidente del Consiglio, Mario Monti. Monti, liberalizzare subito, primo pacchetto entro il 23, disarmo delle corporazioni. Poi per la RAI un po' di tempo e vedrete, ma il PDL risponde: spetta al Parlamento, non all'esecutivo. C'è anche un pezzo di Roberto Zuccolini, così il Premier vuole ridurre i costi, stipendi e province, i tagli alla politica. E poi un commentino di Sergio Rizzo, un pezzo di Sergio Rizzo sulla trasparenza. Solo promesse sui redditi del governo? Chiede. Interessante anche, vi segnaliamo dal Corriere della Sera, oltre al tema della lite europea sulla Tobin Tax, della quale vi parlavamo nel giornale radio, il pezzo di Lucrezia Reichlin. I tedeschi stanno bene? Guardando i dati, no. Questo il pezzo. A centropagina una foto dedicata al campionato. Milan e Juve volata parallela, vincono e restano in vetta a pari merito. E una storia piuttosto divertente, per così dire, naturalmente, che arriva da Fiumicino. Il frac della Scala è l'odissea dei bagagli, valigia sulla pista di Fiumicino e il maestro Harding rischia di restare in jeans. Questo il quadro al Corriere della Sera. Apertura della Stampa, Monti, lavoro e articolo 18, discussione senza tabù è il titolo. C'è un commento in prima pagina che segnaliamo di Lucia Annunziata, nuove leadership, 2012 è l'anno delle donne che decidono. Sull'intervento di ieri invece del Presidente del Consiglio a Che Tempo Che Fa, i servizi sono il carisma d'élite del comunicatore freddo, a firma di Michele Brambile. Poi Tobin Tax, Europa divisa, Londra che sfida Parigi e Roma, come vi accennavamo. C'è un titolo dedicato anche a Sergio Marchionne: il 2012 sarà difficile, ricco di sfide, il mio successore solo dopo il 2015. E poi il caso, c'è un titolo che riguarda i temi dell'ambiente, clima pazzo, il polo si scioglie, Stati Uniti a secco. A centro della pagina sceglie la Stampa di parlare di Haiti, nell'isola ancora in ginocchio la speranza, sono 1 milione di bambini già tornati a scuola. Haiti, il futuro è la generazione terremoto. Interessante il pezzo perché oggi ci dovrebbe essere l'annuncio, o meglio ci sarà l'annuncio del pallone d'oro. Farina Messi, coppia inedita al pallone d'oro. Il pezzo dice che l'unico italiano sul palco di Zurigo è il simbolo pulito del calcio, del calcio scommesse, il giocatore del Gubbio, come ricorderete, che salirà sul palco della Congress House di Zurigo insieme al miglior calciatore del mondo. La Repubblica titola: Monti, la vera sfida è creare lavoro, ma l'articolo 18 non deve essere un tabù, presto novità sulla RAI. Repubblica continua a lavorare sul tema dell'evasione, evasione una riforma a costo zero, c'è una proposta a firma di Alessandro Penati, e c'è un'intervista, un colloquio di Massimo Giannini con Piero Giarda, ministro, come sapete, per i rapporti con il Parlamento, ma anche esperto di conti pubblici, è stato in passato anche sottosegretario. Giarda lancia la spending review, entro gennaio il piano taglia spese, tra l'altro era lui alla guida di una delle commissioni che si doveva occupare di spesa pubblica in vista della riforma fiscale che era stata annunciata dal ministro dell'economia Giulio Tremonti, dall'ex ministro dell'economia naturalmente Giulio Tremonti. E c'è anche il 14° rapporto Demos Repubblica, è ora di restituire lo Stato ai cittadini, è il titolo, e ci limitiamo qua a dare solamente un'occhiata alla tabella che viene messa in prima pagina. È il rapporto che, come sapete, misura il gradimento dei cittadini nei confronti delle varie istituzioni. Si segnala un calo per le forze dell'ordine, che passano dal 74,4% del 2010 al 71,8% del 2011, e a dire la verità un po' inaspettatamente anche il Presidente della Repubblica, dal 70,9% al 65,1%. Sale la scuola dal 52,4% al 55,7%. Scende la chiesa dal 47% al 45%, i comuni salgono lievemente dell'1% dal 48 al 41,8, netta discesa della magistratura dal 49,8% al 41,6% di gradimento, e pesantissimo calo, e forse questo veramente ce lo potevamo aspettare, per l'Unione Europea, dal 49,2% al 36,6%. A centro pagina la Repubblica ha un titolo dedicato a Cameron, che non si piega, niente Tobin tax, dal primo ministro britannico un nuovo schiaffo all'Unione, divertente il pezzo, il racconto da New York di Federico Rampini, yoga, il mito si incrina, non fidatevi, fa male. Il Messaggero, l'apertura, stop alle corporazioni, tra virgolette, sono chiaramente le parole di Monti. Monti in TV, liberalizzazioni subito, presto ci occuperemo della RAI. Anche qua titolo dedicato al no di Cameron alla Tobin tax. E dal lato sportivo, grande foto di Totti con maglietta alzata e sotto un'altra maglietta, una maglietta bianca con scritto scusate il ritardo, festa con Totti all'Olimpico e giallorossi puntano in alto, titola il quotidiano romano, che parla anche, tema che approfondiremo più avanti, dei killer del padre e di una figlia, avvenuto del duplice omicidio avvenuto a Torpignattara, del padre di una bambina. Il titolo è: Roma, c'è il volto dei killer, caccia i due marocchini del video, uno era stato espulso, e poi le fiaccole e le lacrime in nome di Joy, che è la bambina che è stata uccisa. E un commento su una vicenda che ha animato un po' le pagine dei quotidiani nei giorni scorsi, la targa per i morti di H. Larenzia, parliamo di una vicenda di 34 anni fa, di giovani di destra, appunto, uccisi 34 anni fa, da H. Larenzia all'omicidio Verbano, le targhe della memoria che dividono. Il Sole 24 Ore del lunedì, lavoro, le mosse del governo, il titolo principale, i giovani che non hanno né cercano un impiego costano l'1,7% del prodotto interno lordo. Idee e coraggio, non solo regole, è il titolo di un editoriale di prima pagina, si parla di riforme obbligate, e poi a centropagina l'IRPEF regionale punisce i redditi bassi dopo la manovra aumenti del 36,7% per le aliquote inferiori, e c'è un titolo anche dedicato alla giustizia civile su un fatto interessante: rischio estinzione per 500.000 di cause. Questo il quadro dai principali quotidiani che troviamo oggi in edicola. E vogliamo dare un'occhiata anche a quelli stranieri, un'occhiata rapida alle cose che abbiamo trovato in giro di interessante. Allora, il Wall Street Journal ha dobbiamo dire la verità, uno splendido pezzo, una splendida agenda, per così dire, di Simon Nixon, agenda per l'Europa, naturalmente a questo ci riferiamo, che segnala già dalle prime righe qual è la visione. Identifica come forze centrifughe, quindi che in qualche misura spingono alla divisione, esattamente i governi europei, mentre invece le forze che spingono all'unione dei paesi europei sono esattamente i mercati. C'è anche lo spazio per qualche citazione sull'Italia. Si chiarisce che piano piano il debito dei paesi dell'Eurozona sta rientrando, gli asset stanno rientrando nell'ambito domestico, insomma tra le banche domestiche, e dice praticamente tutta la domanda per le obbligazioni italiane a 10 anni la scorsa settimana sono arrivate da investitori domestici, sollevando maggiormente le paure su quanto lungamente il nostro paese possa continuare a finanziarsi sui mercati. Interessante la vicenda che viene citata da Simon Nixon anche per quanto riguarda Unicredit, a testimonianza del fatto che anche i regolatori internazionali stanno progressivamente premendo sulle banche straniere che operano nei paesi perché insomma facciano rientrare alcuni asset. Dice in sostanza che i regolatori tedeschi hanno ristretto la capacità di Unicredit di rimpatriare capitali e fondi dalla sua sussidiaria tedesca, nonostante questa sussidiaria tedesca abbia dei criteri patrimoniali assolutamente adeguati. Questo per quanto riguarda Simon Nixon sul Wall Street Journal e la parte che più concerne l'Italia. Per quanto riguarda il Guardian, vi segnaliamo che si occupa del nostro paese per toccare il tema delle corse di cavalli, perché il settore è in ampia crisi, in parte insomma è stato raccontato anche dai giornali italiani nelle scorse settimane. Ci sono stati una serie di scioperi, segnala naturalmente il Guardian che nonostante non ci sia questa grande popolarità, così come c'è in Gran Bretagna, in Irlanda e in Francia, ci sono comunque più di 40 corse nel nostro paese, alcune attraggono importanti, diciamo così, e alcune attraggono appunto cavalli e come dire corridori, per così dire corridori, insomma cavalli e fantini da tutta Europa. C'è un problema di fondi. Altra vicenda interessante che non mancherà di creare delle polemiche, conoscete la vicenda di Royal Bank of Scotland, e questa la trovate sul Financial Times e sull'Independent. Royal Bank of Scotland fu nazionalizzata nel 2008, ebbene già l'anno scorso l'amministratore delegato si era fatto dare 7,5 milioni circa, poco più di 7 milioni di sterline di liquidazione, di bonus annuale, altro che liquidazione. Ebbene, anche per quest'anno, tra mille polemiche, proteste durante l'assemblea dei soci, ebbene, anche quest'anno gli starebbero per arrivare altri 4 milioni di sterline, nonostante il valore del titolo dai 49 pence al momento della statalizzazione di Royal Bank of Scotland è passato a circa 20 pence di oggi. Scusate, addirittura nell'ultimo anno, dai 49 pence del febbraio scorso ai 20 pence di oggi, e l'amministratore delegato si becca comunque 4 milioni di sterline di bonus. Adesso una pausa, ci ritroviamo per il GR. Prima edizione.

in proiezione settimana si va tutti verso il derby, cioè tutte le attese, i commenti saranno concentrati verso questo evento. Naturalmente. C'è anche altro, come ovvio, a sì, partire da quello che, sì, direi che, quello, beh, che intanto, nella capitale chiamano il progetto con sì, due G di Luis intanto Enrique. Direi che è un campionato di fortissimo equilibrio, direi, perché insomma ieri le prime sette, a parte la Lazio, hanno vinto tutte. L'Udinese si conferma terza forza e il Napoli ha stravinto col Palermo. E poi, a proposito di quello che dicevi tu, il progetto della Magica, direi che insomma Totti è tornato al gol dopo sette mesi, e questo aveva la scritta "scusate il ritardo", che è molto tottiana, comunque è un segno già di buona salute, perché quando Totti sta bene la Roma una volta stava bene, era così, non so se vale ancora per adesso. Posso dire che è la terza vittoria consecutiva, e poi sembra che insomma siano ritornati a funzionare quei sensori che danno il segno di benessere, perché hanno vinto, il Chievo non è facile da battere, l'ha battuto bene, Totti ha segnato, e poi anche la questione di De Rossi, che è quella che tiene un po' monopolizzata l'attenzione, mi sembra che stia evolvendo con maturità. È probabile che De Rossi se ne vada, perché le offerte sono troppo allettanti, però mi sembra che l'ambiente lo stia maturando, incassando bene la cosa, e mi sembra che la Roma sia abbastanza attrezzata. Ultima cosa, direi che il tempo sta livellando il campionato, nel senso che probabilmente, come è successo per l'Inter, a poco i grandi club hanno saputo trovare le misure per un campionato che si dimostra equilibratissimo e soprattutto e quindi più piacevole, molto semplicemente. Grazie al nostro Dario Ceccarelli, che adesso lasciamo anche al lavoro sui giornali radio. Prima di andare alla viabilità, ci vogliamo occupare di cronaca italiana e delle indagini per l'omicidio di padre e figlia a Roma, una vicenda che abbiamo ampiamente raccontato anche la scorsa settimana, che avrete letto sui giornali. Maria Luisa Pezzali, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Sarebbero due pregiudicati maghrebini i killer della bambina cinese di 9 mesi e del padre Zhu Zheng di 31 anni, uccisi, come ricordavi, a Roma in una rapina a Tor Pignattara mercoledì scorso. A quanto sembra rapinatori non professionisti che dopo il duplice omicidio hanno lasciato tracce un po' ovunque, abbandonando lo scooter, i caschi, lasciando la borsa contenente i 16.000 euro davanti a un casolare a 2 chilometri circa dal luogo del delitto. Banconote macchiate di sangue, ecco perché ritengono gli investigatori i due hanno abbandonato l'area furtiva. A 5 giorni dall'agguato i carabinieri li hanno individuati proprio grazie alle impronte lasciate su queste cose abbandonate, il cellulare della vittima nella borsa inoltre ha funzionato da antenna per ricostruire il percorso della loro fuga. I due sono stati poi ripresi da una telecamera di sorveglianza, queste immagini sono state incrociate con le foto segnaletiche delle impronte, insomma gli investigatori hanno un volto e un nome per entrambi. Uno dei due sui 30 anni, corporatura robusta, scarcerato da poco per ricettazione e rapina, è ferito alla mano sinistra e potrebbe avere o aver avuto bisogno di cure. Ora la questione è che i carabinieri stanno lottando contro il tempo per fermarli prima che fuggano dall'Italia, stanno setacciando la capitale quartiere per quartiere, sono molti i posti di blocco, i pattugliamenti, è stata ovviamente allertata anche l'Interpol. Contemporaneamente si sta cercando di capire se gli assassini possano essere stati informati da qualcuno sul fatto che la vittima avesse con sé quella sera quella grossa somma di denaro legata appunto all'attività di money transfer. Intanto continua il pellegrinaggio sul luogo del delitto, sono centinaia i messaggi, i fiori lasciati per le due vittime. A Roma domani è prevista una manifestazione, una fiaccolata in ricordo delle vittime. Prima edizione. Le 6, 47 minuti e 42 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Ora andiamo all'apertura del Salone dell'Auto di Detroit. A dominare la scena ci sono anche le parole di Sergio Marchionne. Ci colleghiamo con la capitale dell'auto americana e con l'inviato del Sole 24 Ore, Andrea Malan. Buongiorno Andrea. Buongiorno da Detroit. La prima giornata del salone è importante per il gruppo Fiat Chrysler, che presenta la berlina Dodge Dart, costruita su una piattaforma derivata da quella dell'Alfa Romeo Giulietta, una vettura importante che testimonia la crescente cooperazione tra le due aziende e che ha il compito di rilanciare Chrysler anche nelle berline compatte, un segmento che finora è stato dominato da giapponesi e coreani. In un'intervista al Detroit Free Press, Sergio Marchionne, amministratore delegato di Fiat e Chrysler, ha avvertito che il 2012 sarà in realtà per Chrysler un anno difficile, perché oltre alla già citata Dodge non ci sono altre novità di rilievo. Il rinnovo della gamma di prodotto dovrebbe accelerare l'anno prossimo con 8 modelli nuovi. La Chrysler, ricordiamolo, ha comunque chiuso il 2011 con un balzo delle vendite del 26%, grazie soprattutto alla Jeep e ai pick-up con marchio Ram. La rinascita dell'azienda americana è un'ottima notizia anche per la Fiat, visto che Chrysler è consolidata da 7 mesi nel bilancio del Lingotto e che nel 2012 sarà una delle maggiori fonti di profitto per il gruppo italiano. Nell'intervista al quotidiano locale Marchionne ha parlato anche della scelta di un suo successore. Non se ne discute, ha detto, fino a tutto il 2015, ovvero per altri 4 anni. Ecco Andrea, ma che clima si respira al salone? L'umore qui al salone è sicuramente buono dopo un anno che ha visto le vendite di auto negli Stati Uniti aumentare del 10% circa. Per il 2012 è prevista ancora crescita, anche se a un tasso più contenuto. Il fatto che sia un anno elettorale dovrebbe garantire politiche ancora espansive e le vendite potrebbero toccare i 13 milioni e mezzo di veicoli, ovvero auto e cosiddetti light truck, ovvero SUV e pick-up. Per dare un'idea, 13 milioni e mezzo sono molto più del minimo di 10 milioni e mezzo del 2009, ma lontani dai 17 milioni di prima della crisi, un livello quest'ultimo che, secondo molti operatori, non verrà mai più raggiunto. Il 2011 è stato un anno importante per Detroit, nel senso che Chrysler, Ford e GM hanno guadagnato tutte e tre quote di mercato, un evento che non si verificava da tempo immemorabile, ma che è dovuto anche all'impatto del terremoto in Giappone sulla produzione di Toyota e Honda. Queste ultime puntano alla riscossa nel 2012 e non vanno dimenticate anche una Hyundai in forte crescita e una Volkswagen che punta a tornare ai tempi d'oro del maggiolino, con un obiettivo a livello di gruppo per quest'anno di vendere oltre 500.000 auto negli Stati Uniti. Il mercato americano insomma resta uno dei più competitivi al mondo e nei prossimi giorni vi racconteremo le strategie e i modelli più interessanti. Grazie ad Andrea Malan, col quale appunto ci collegheremo anche nei prossimi giorni. Buona giornata, in realtà buonanotte a lui. E noi veniamo all'agenda di governo. Come si diceva, una settimana molto intensa. Ieri il Presidente del Consiglio, ospite di Che Tempo Che Fa, da Fabio Fazio, ha detto che non ci sarà una nuova manovra, che si partirà con le liberalizzazioni. Abbiamo già sentito queste parole nel giornale Radio delle 6. Allora sentiamo alcune delle altre parole di Monti. Molto si è discusso del blitz a Cortina contro l'evasione. Sentiamo che cosa ha detto su questo. Non ho niente contro la magnifica perla delle Dolomiti. Operazioni come quella possono avere un loro significato nell'ambito di una lotta seria contro l'evasione fiscale. Bisogna fare due cose che possono sembrare contraddittorie. L'una, rispettare la ricchezza. La ricchezza è un valore. Al tempo stesso lotta senza quartiere contro l'evasione. La prima restituzione è pagare le tasse. La prima restituzione è pagare le tasse. E poi il tema del confronto sul mercato del lavoro, così sull'articolo 18. Il nostro governo ha un atteggiamento mentale e un'agenda specifica. L'atteggiamento mentale è quello di considerare che niente debba essere tabù in una discussione tra forze mature, civili e interessate, come i sindacati lo sono, come il mondo produttivo delle imprese lo è e come il governo lo è al futuro del paese. In questo senso il mio ministro del lavoro Elsa Fornero aveva citato anche l'articolo 18. Alle 6:52 minuti, 45 secondi, parliamo di cinema. Siamo soli. La vita è soltanto sulla terra. Di Lars von Trier, Melancolia, è stato giudicato dai critici americani il miglior film dell'anno. Aveva già conquistato alla 24esima edizione del Festival del Cinema di Berlino il riconoscimento come miglior film europeo del 2011. Il film narra, ma questa è solamente la narrazione, al di là del senso vero e proprio, di una grave minaccia che incombe sulla Terra, il pianeta Melancolia, che si sta avvicinando, e benché il mondo scientifico inviti all'ottimismo, il rischio di collisione e distruzione totale del globo terrestre è più che mai realistico. Le altre statuette annunciate dalla National Society of Film Critics sono quelle per il miglior attore, ovvero Brad Pitt, per ben due film, l'atteso Moneyball e The Tree of Life di Terrence Malick. Miglior attrice invece Kirsten Dunst, protagonista di Melancolia, che era già stata premiata al Festival di Cannes. Miglior regista Terrence Malick, e miglior film straniero e Separation di Asghar Farhadi, una delle pellicole favorite per l'Oscar. Ancora una notizia dallo show business americano, decisamente più leggera, però ve la diamo, insomma, di questa notte. Beyoncé è diventata mamma, la piccola Ivy Blue Carter, figlia della trentenne pop star e del rapper Jay-Z, è venuta alla luce con un parto cesareo all'Lenox Hill Hospital di New York. Ed è così che chiudiamo prima edizione. Un ringraziamento a Peter Bescapè in regia, a Viola Bottoni in redazione. Un grazie come sempre a tutti voi per l'ascolto. Da Simone Spezia, ci sentiamo tra poco con il giornale radio.